L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata prenatalizia dell'altro pianeta. Quest'anno, tra l'altro, a quanto pare i prodotti alimentari sono in cima alle preferenze d'acquisto degli italiani per i regali. Ben 3 su 4, dicono le stime, faranno regali gastronomici, seguiti poi da giocattoli e giochi per bambini, ovviamente. Allora, di alimentari parleremo anche noi con due imprese che operano nel settore agroalimentare, che abbiamo scelto un po' per la novità della loro offerta, un po' per l'attaccamento al territorio e alla qualità italiana che le ha ispirate e un po' perché sono nate e cresciute all'ombra della crisi. E nonostante la crisi. Insomma, ci sono sembrate un segnale di speranza per chi è in cerca di lavoro o ha idee per cambiare lavoro ma teme di rimanere con un pugno di mosche. Cominciamo col parlare di Takati, una piattaforma di e-commerce, quindi di commercio elettronico, quindi stiamo parlando di internet, che ci presenta Giulia Valente, la giovane 28enne responsabile marketing di Takati. Takati è un sito che permette di fare la spesa online e di acquistare direttamente dalle piccole botteghe della città, quindi dalla gastronomia, dalla macelleria, dalla salumeria, dall'ortofrutta, e si va sul sito, si ordina direttamente quello che uno vuole ricevere a casa e poi sono direttamente i bottegai, i piccoli negozianti che fanno la consegna della spesa a casa del cliente. Quindi in pratica come fare una spesa online, però non in un supermercato ma nelle piccole botteghe della nostra città. Esatto, sono tutte piccole botteghe che noi abbiamo selezionato con molta cura, nel senso che cerchiamo sempre di far sì che i prodotti in vendita su Takati siano tutti prodotti locali, stagionali, provenienti da piccole produzioni, e quindi sono botteghe che sono molto specializzate sulla qualità e sulla filiera corta. Questo significa da parte vostra anche una bella ricerca, immagino, perché voi siete un po' la garanzia per il consumatore. Questa bottega rispecchia veramente certi requisiti, diciamo, che dice di avere. Esatto, sì, noi selezioniamo soltanto botteghe che diciamo hanno già fatto a loro volta un'ampissima selezione di prodotti locali e che mantengono strette relazioni con i piccoli produttori, e in questo modo diciamo che è assicurata la qualità e anche la sostenibilità della spesa che uno va a fare. In che aree del paese è attualmente disponibile questo servizio? Allora, noi abbiamo iniziato un paio di anni fa in Piemonte e adesso Piemonte che in questi anni è un po' l'origine di tutto ciò che riguarda il cibo, direi. È vero, c'è proprio un bel movimento qui per quanto riguarda tutto quello che è l'alimentare. Piemonte e dove? Piemonte, Torino, Asti e Alba. Poi ci siamo allargati sempre nel Piemonte, adesso siamo attivi anche a Biella. Abbiamo iniziato qualche mese fa a Milano, ultimamente ci siamo spostati anche in Toscana, Pisa, Livorno, Firenze, e ci stiamo preparando per iniziare anche al sud, partendo dalla Sicilia. Quindi insomma si sta allargando, diciamo. Quindi c'è anche un buon riscontro, diciamo, da coloro a cui voi proponete questa possibilità. Sì, diciamo che il riscontro è positivo sia da parte dei clienti, cioè delle persone che vogliono fare la spesa, perché c'è veramente proprio, è molto sentita questa necessità di fare una spesa che sia comoda ma che non sia che non siano i soliti prodotti industriali, no? C'è veramente la ricerca di una qualità diversa, sapere da chi stai comprando e tutta la storia e l'origine dei prodotti. E poi c'è anche molto, molto interesse da parte dei piccoli commercianti, nel senso che in questo periodo di crisi c'è bisogno di trovare dei canali di vendita nuovi e l'e-commerce è molto, molto, molto interessante, soltanto che se un piccolo commerciante dovesse da solo andare a farsi un e-commerce non avrebbe i capitali e le conoscenze per poterlo fare, e quindi noi diciamo che gli andiamo incontro offrendogli una soluzione che è pronta all'uso con degli investimenti molto, molto bassi, e soprattutto noi ci occupiamo di tutta quella che è la promozione del servizio, cosa che richiede delle competenze che il piccolo negoziante non può avere. Certo, però trova in questo sistema un modo anche per fare squadra, che poi è quello che si dice sempre, che forse può salvare le piccole botteghe, no? Una bottega da sola con magari due soli marito e moglie che si alternano in negozio magari fa veramente difficoltà a sopravvivere, mentre unendosi ad altre della stessa città attraverso questo sito può rilanciarsi senza dover spendere grandi cifre, non so, in pubblicità oppure appunto per farsi un sito e così via. Esatto. Dunque, Giulia, abbiamo detto che lei è, si occupa del marketing, ma anche tra i fondatori di Takati insieme a Stefano Cravero. Vi chiedo, qual è la vostra formazione? Allora, sia io che Stefano, l'altro fondatore di Takati, abbiamo studiato economia e commercio e abbiamo poi lavorato per diversi anni all'estero. Io mi sono occupata del marketing di una multinazionale di elettronica e Stefano ha lavorato per più di 7 anni nella finanza internazionale. E poi diciamo che, pur appunto seguendo dei percorsi un po' diversi, abbiamo deciso entrambi di tornare in Italia perché volevamo, insomma, dedicarci a un'attività che avesse veramente un risvolto positivo, concreto a livello locale e a livello sociale. E io sono sempre stata molto, diciamo, una mangiona e appassionata della buona alimentazione e quindi volevo dare forma a questo mio grande interesse. E Stefano invece aveva lavorato, diciamo, subito dopo essere uscito dal mondo della finanza, a progetti di social business in Bangladesh con il professor Yunus, l'inventore del microcredito. E quindi quando ho deciso di ritornare in Italia ha detto: ok, voglio mettere in pratica quello che ho imparato in questa mia esperienza. E da qui è poi nato Takati, diciamo. È molto bello e forse un pochino amaro però riflettere sul fatto che chi rientra in Italia spesso lo fa perché ha un'idea in proprio. Sì, io in realtà trovo che sia una cosa positiva il fatto che uno esca, vada all'estero, acquisisca tutta una serie di competenze, di conoscenze, apertura mentale e poi lo riporti in Italia. Sì, ma magari non in un'azienda già esistente, cioè ne fonda una propria, questo mi colpiva, diciamo. Sì. Un po' più diciamo difficile che rientrare in aziende grandi o appunto già lanciate, perché spesso tendono un pochino a escludere, diciamo così, chi ha una giovane età e una formazione internazionale, perché magari si pensa che abbia molte pretese, perché... Esatto, ma poi soprattutto se l'idea è quella di restare appunto in una grande azienda, allora forse conviene stare all'estero dove le condizioni economiche e contrattuali sono comunque migliori, per cui credo che sia per questo motivo che alla fine chi rientra in Italia decida poi di mettersi in proprio. Comunque c'è spazio, mi pare cose, che ci sia ecco, spazio per fare qualcosa nonostante la crisi. Sì, assolutamente. Avete trovato, diciamo, una certa facilità di accesso a prestiti oppure avete dovuto fare tutto da soli? Sì, no, infatti volevo riagganciarmi al discorso che stavamo facendo prima sul fatto che comunque ci sono delle opportunità anche in Italia. Noi abbiamo iniziato nel piccolo, abbiamo fatto, investendo i nostri capitali, abbiamo fatto tutta una serie di test e abbiamo dimostrato che il modello di business funzionava e questo ci ha permesso di entrare in contatto con un fondo di venture capital che è Principia, che quest'estate ha, diciamo, deciso di scommettere su Takati, sulla nostra impresa, e ha investito, insomma, una somma considerevole, 1 milione di euro, per permetterci di portare Takati in tutto il territorio nazionale, per cui, nel senso, devo dire che siamo veramente l'esempio, la prova che ci sono delle ottime opportunità anche in Italia. Grazie Giulia per essere stata con noi, ricordo appunto takati.it, ovviamente non poteva essere internazionale perché altrimenti si sarebbe perso l'idea, insomma, del prodotto italiano, non poteva essere .com. Grazie, no, a Giulia Valente, cofondatrice, responsabile marketing di Takati, e buone vacanze, a risentirci. Facciamo ora una pausa per il traffico e poi proseguiamo. L'altro pianeta. Continuiamo in questa seconda parte a parlare di commercio di prodotti agroalimentari via internet, in questo caso però attraverso una piattaforma che è nata per accorciare la filiera tra produttore e consumatore. Di questo tema abbiamo parlato negli anni scorsi, ad esempio occupandoci dei mercatini degli agricoltori nelle città, oppure parlando dei gas e dei gruppi di acquisto solidale. Ecco, adesso parliamo di un gas, per così dire, via internet, e ne parliamo con Marco Porcaro, che è fondatore di Cortilia, anche lui formatosi in un ambito diverso da quello attuale, nacque infatti come informatico. Cortilia è un mercato agricolo online, praticamente una piattaforma internet che permette ai nostri agricoltori del territorio di vendere direttamente i loro prodotti al consumatore finale. Inoltre Cortilia si occupa anche di andare a raccogliere la spesa, frutta, verdura, carne, formaggio che possiamo ordinare dal produttore, e la consegna a domicilio con dei mezzi brandizzati Cortilia che offrono proprio un servizio di consegna a domicilio utile a chi vuole fare la spesa tutte le settimane in campagna. pur vivendo in città, perché poi questo il problema di tutti noi che viviamo in città, siamo tutti compressi nelle città, ma ci piacerebbe tanto avere prodotti freschi che arrivano dalla campagna. Questo è possibile appunto ad esempio con piattaforme come Cortilia. Per ora voi coprite l'area nord del paese, no? Sì, in questo momento siamo presenti in Lombardia essenzialmente, ma l'obiettivo è quello di espanderci su tutto il territorio nazionale, quindi consegniamo a Milano e provincia, Varese, Monza, Como, e l'obiettivo poi è quello di espandersi nel corso del tempo su tutto il territorio per permettere ad altri agricoltori, ad altri utenti, consumatori di poter acquistare questi prodotti in maniera unica. Però il nostro punto di forza è quello di permettere all'agricoltore proprio di vendere, quindi decide lui il prezzo, decide lui l'offerta, decide lui in base alla stagionalità dei prodotti quali prodotti rendere disponibili al consumatore. I vantaggi per il consumatore sono quelli di avere questi prodotti unici, artigianali, prodotti con grande passione direttamente da chi li coltiva tutti i giorni. Poiché parliamo di chilometro pressoché zero laddove è possibile, i fornitori sono tutti dell'area, quindi Lombarda, Piemonte, Veneto, immagino più o meno. No, parliamo di filiera corta, nel senso che il nostro focus è sul disintermediare, al contrario di altre iniziative simili o potenzialmente simile a Cortilia. Il focus di Cortilia è quello di fare in modo di comprare il prodotto migliore direttamente dal produttore. Nel caso di Cortilia, ad esempio, abbiamo anche produttori di aranci siciliani biologici che vendono attraverso la piattaforma e quindi, essendo in Lombardia, non sono prettamente locali o chilometro zero, però il prodotto migliore, il prodotto con delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, il più vicino possibile sostanzialmente da un punto di vista di distribuzione. Quindi sono i consumatori, ecco, che stanno in Lombardia, i produttori non necessariamente. Tendenzialmente anche, però non necessariamente, in base a che tipologia di prodotti sono resi disponibili. Per noi il nostro focus è proprio rendere disponibili quei prodotti artigianali e quelle produzioni tipiche del Made in Italy, che sono uniche, in quanto uniche vanno trovate sul territorio dove c'è vocato per quel tipo di produzione. Senti, visto che immagino questo comporti per voi anche un bel lavoro di selezione, no? Perché bisogna andare a cercare appunto il miglior produttore, bisogna cercare colui che garantisce certe condizioni, eccetera, eccetera. Mi pare che voi siete rientrate in pieno e possiate tranquillamente dire la vostra su questa grande discussione che c'è in questi ultimi mesi sulla produzione agroalimentare italiana, che ha sempre più peso anche nella nostra bilancia commerciale con l'estero. Ti pare che la tuteliamo abbastanza la nostra agricoltura, i nostri prodotti? Ma se mi passi la battuta, mai abbastanza, sostanzialmente mai come meriterebbe, nel senso che poi, avendo avuto la fortuna di lavorare su Cortilia, ho la possibilità di confrontarmi con questi agricoltori, soprattutto anche le giovani generazioni che cercano nuovi canali di sbocco, nuovi metodi di vendita, e trovo una passione e una qualità dei prodotti veramente unica, incredibile. E secondo me si può fare molto nella valorizzazione proprio della produzione, sia a livello nazionale che internazionale, perché abbiamo veramente delle persone, un territorio che ci permette di avere dei prodotti unici e con delle storie uniche, perché un'altra attività che facciamo con Cortilia è quello di arrivare, di aiutare i produttori agricoli a raccontarsi, a raccontare come producono le loro zucchine, come producono i loro formaggi, i loro salami. E quando li si stimola nel racconto si scoprono delle storie fantastiche, e quindi si crea anche quella forte relazione tra chi consuma e chi produce, che rende unico tutto il processo alimentare di consumo. Sono tutte informazioni che l'agricoltura deve imparare a raccontare, deve sforzarsi di raccontare sempre di più, in modo tale da valorizzare la propria unicità. Quindi forse l'Italia pecca nel non riuscire a valorizzare non solo i suoi prodotti, che diciamo che in linea di massima ci può anche riuscire, ma i suoi produttori, ecco, forse non abbiamo abbastanza attenzione verso chi le cose le fa. Esatto, anche il produttore stesso, io sono più per trovare anche la responsabilità individuale, diciamo che anche l'azienda agricola, l'agricoltore si deve un po' innovare nella propria proposizione, quindi utilizzare sempre in maniera più efficiente i mezzi a disposizione nella propria, per raggiungere un mercato sempre in maniera più unica, per valorizzare le proprie offerte, ad esempio utilizzando internet. Tu hai detto internet, quindi questo ci porta un po' alla nascita, all'origine di Cortilia. Tu sei arrivato a organizzare questa piattaforma da esperienze diverse, no? Quelle in un mondo comunque legato più alla tecnologia. Cosa facevi prima di Cortilia? Ma Prima di Cortiglia mi occupavo di, sono uno startup seriale, diciamo, ho creato diverse, come si suol dire in questo periodo, ho lavorato su, sempre sul mondo internet, tecnologia, ad esempio la società prima che abbiamo cofondato si occupava di un software per l'ottimizzazione del trasporto, che è lo stesso motore che utilizziamo all'interno di Cortiglia stessa, piuttosto che dal mondo internet, dall'esperienza sulle applicazioni mobile. Ho praticamente con Cortiglia ho avuto la fortuna di coniugare le mie due più forti passioni, il cibo e la tecnologia. Io ho pensato di mettere la mia conoscenza della tecnologia a servizio dell'agricoltura e quindi di un mercato fortemente intermediato e che ha delle grandi potenzialità di, come dicevamo prima, di poter utilizzare questa tecnologia in maniera molto efficiente, unendo anche una componente di servizio e quindi il discorso della logistica del trasporto e quindi dare la possibilità sia per chi vende che per chi compra di avere anche un servizio come la consegna a domicilio, che in Italia è difficile da organizzare in funzione della distribuzione del territorio e dell'unicità anche del tipo di distribuzione che è legata al fresco. Questo per dire anche che chi ha delle idee, magari si sente un po' ammuffire nel proprio posto di lavoro, insomma, può cercare di mettere a frutto le proprie competenze, le proprie passioni e creare qualcosa di nuovo. Insomma, c'è un po' di spazio ancora nonostante le difficoltà del momento. C'è un enorme spazio, secondo me, che si può andare a colmare, ci sono numerose opportunità, ma chiaramente il contesto, diciamo, di crisi e di dinamiche della società non aiuta, ma sicuramente la crisi è comunque, è vero che è un'opportunità, cioè sono grandissime opportunità, ci vuole una volontà, ma anche in settori che non sono contigui con il nostro principale, ad esempio nel mio caso, vendendo tecnologia e cibo, ho creato una nuova opportunità di lavoro per me, per i ragazzi, perché ho un magnifico team di giovani ragazzi che lavora con me, e anche per tutti il network di agricoltori che ha la possibilità di vendere attraverso la piattaforma. Ti posso fare una domanda un po' indiscreta, cioè avete avuto bisogno di soldi per cominciare, li avete trovati come? Sì, li abbiamo trovati, per iniziare abbiamo cercato di finanziarci con dei capitali di rischio attraverso business angels e piccoli fondi di investimento, abbiamo trovato delle persone illuminate che hanno creduto nel progetto e che ci hanno aiutato a farlo partire con una certa energia, chiaramente, perché era un progetto che poteva partire anche autofinanziato, ma avrebbe richiesto tempi e modalità di sviluppo molto più lenti, e quindi la fortuna e la capacità di riuscire a trovare delle risorse finanziarie da investitori ci ha permesso di essere molto più puntuali nell'offrire un'offerta come quella di Cortiglia al consumatore finale. Certo, è un po', stavo pensando un po' alla struttura dei GAS, che non, però senza la necessità di trovare un gruppo e un qualcheduno che poi va fisicamente dal contadino, no, a ritirare le cose. Avete semplificato la vita a chi decide di usufruire di questo servizio, insomma di chi vuole prodotti diretti dalla campagna. Esatto, perché come me e come altri che hanno partecipato a GAS oppure si recavano settimanalmente in campagna, Cortiglia permette a tutti noi di semplificare questo processo, magari andando la prima volta dall'agricoltore per conoscerlo di persona, vedere come coltiva o produce la propria alimentazione, ma poi rifornendosi tutte le settimane comodamente con un click, ad esempio da un tablet o da un mobile phone, facendo la propria spesa, però sapendo, avendo la consapevolezza che si acquista da un produttore che si conosce, tracciabile direttamente, è il produttore che scontrina e mette il prezzo sul prodotto, avendo piena consapevolezza di tutto il processo di produzione e alimentare. Questo è un po', diciamo, l'unicità del modello. L'ultima cosa che ti voglio chiedere è, allora, il riscontro, diciamo, da parte dei consumatori c'è stato, è positivo. Quando voi vi proponete agli agricoltori, come venite accolti, diciamo così, quando andate a fare la vostra indagine su cosa producono e come lo fanno? Inizialmente ti potrei immaginare in maniera molto scettica, perché convincere un agricoltore a raccontargli che poteva vendere le proprie zucchine su internet non è proprio stato semplice, e quindi è stato molto complicato. Oggi, per fortuna, per il minimo di notorietà che abbiamo, adesso sono gli agricoltori che ci contattano, e quindi siamo fortemente stimolati dagli agricoltori, anzi li invitiamo sempre di più a contattarci, perché siamo sempre alla ricerca di nuove aziende agricole e a raccontargli come raccontarsi, perché poi quello che chiediamo all'agricoltore che partecipa, che vende attraverso la piattaforma, è comunque di fare un lavoro che è legato poi allo sviluppo della propria storia, a documentarsi digitalmente, a fare le fotografie dei propri prodotti, a raccontare la propria storia, a descrivere le proprie metodi di produzione, e il nostro lavoro sta proprio nel selezionarli, verificare che quello che raccontano sia coerente con quello che vendono e aiutandoli poi nel corso del tempo in tutto il processo, anche quello logistico. Giusto in chiusura, Marco, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che insomma i regali agroalimentari sono sempre più graditi, specialmente in questo periodo in cui appunto si fanno tanti regali, tante volte si regala il superfluo. Ecco, anche Cortiglia mette a disposizione la possibilità di fare regali di Natale. Sì, in occasione delle feste con Cortiglia abbiamo appunto pensato anche con gli agricoltori di offrire questi buoni regalo che permettono appunto, che possono permettere a chi partecipa a Cortiglia o a nuovi utenti di poter regalare a familiari, parenti, figli, nipoti, nonne la possibilità di acquistare una cassetta di frutta e verdura, quindi un regalo utile in un periodo in cui ce n'è bisogno. Sì, e in cui fa anche piacere insomma avere cose fresche. Esattamente. E non congelate, lo dico senza alcun interesse visto che la mia area di residenza non è coperta da Cortiglia ancora. E poi confesserò qual è. Grazie a Marco Porcaro, fondatore di Cortiglia, per essere stato con noi. Buone vacanze e a risentirci. Grazie. Ci fermiamo qui, a tutti auguri di buon Natale e ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. We'll be right back.